Cielo. Asciuro. Cosa c'è da brontolare? Cosa c'è da brontolare? E beh, la piovra è frigida e buscia. Mi raggio gusto. Ma vai messo il frigge. Ma gli raggio buci frigge. Hai lui, non hai visto una zona, hai lui. Ehi, già l'ho visto. Come tieni tu, capi via due, uè? Cado la cosa, ma è tenna, tennaro, tennaro. Perché l'avevo messo in frigge lo stesso. Buoni, già sono buoni già. Ehi, cado qui, sono buoni. Oggi mi hanno fatto uno a coso con un zucchetto e mi hanno fatto la mezza penne. E un po' che è salata mi hanno fatto. Ehi, già è buono, ma uno di chi ci deve fare? Come? Uno di quelli che hai preso oggi. No, uno che non abbia il freezer. E un altro era il tuo, che non abbia il freezer. Così che avevo fatto uno con la pasta asciutta e uno a cosa insalata l'avevamo fatto, capito? No, che siete oggi tragi il bossetto? Così che hanno i rivuchi, diventano i più spennari, diventano. E anche se rubigli così e rubigli rimane un bel gadduccio, più tutti rimane. Invece una volta che lo metti nel pozzetto, ne lo levi, quando lo cucini rimane più tenero, più morbido, e un po' di quel duro lo perde. Ehi, già sono buoni, a me già mi piacciono molto. Anche i calamari, qualche gambero, già me lo mangio. Quella roba così già la mangio, ma proprio il pesce non è che mastichi assai. Specialmente li vedi il pigliami. Oh! Sì! Anche il pesce ogni tanto, ragazzi, tanto per cambiare, no? L'altra volta lì a Coso, alla Crai, ho trovato quello di, come si chiama, di zuppa, ma ogni pesce quella cosa è incredibile, io non pensavo che fossi di zuppa, e qua c'era di zuppa, ma buono veramente, fresco fresco, direttamente da mare al negozio, però quella era la Marturi, capito, la giubilati, gatto la giubba fatta in due voci, ma sai che era fresco, buono, ehi, la zuppa la puoi fare come se ti piace, con un pesce minuto, con un pesce maturo. Anche io molte volte quando la copro la zuppa, che mi dici, li metto questo, se non è pronto, no? E mi riporto buoni belli maturi di pesce. E gli esci buona. Chi dice che con un pesce più minuto è più saporito, ma a me non mi stesso, però. Con i pesci grandi già me la mangio, più i pesci minuti no, a chi fa più i finavali. Lo so, però se vuoi pesce buono, fresco, cazzo, pure fa già i pina, sai, capita, è fresco e rimane più buono, capito? Come ti chiama, chi si va i pinambei, la cosa, come ti chiama? Lo cronco, infatti, quando ero con pareggio, lo dico, piglio questo di bambino di carta di pane, ma la paletta lo mantieni, e lo dico verso giù, verso la cosa, infatti poi la cosa è un pezzo. Mi lo dai il cellulare, ma chi si rimane tutto pieno di pina, compreso. Già è buono, il grocco già me lo mangio, pure un vaso friso, oppure un friso con i capperi e le cipolline e il sughetto, un vaso di fresco, così già me lo mangio. Però la vedi che la spina che è matura, con friso. È tutto buono, dai, grande fresco, è tutto buono, grazie a lei, ha ragione. Tanta roba fresca è tutto un altro discorso, dai. Però non sempre la c'è più fresco. Magari chissà quando delle pere che che vendono da Europa, magari latte ai supermercati, sa donne delle vere che si besti, gatta. Oh, e cosa vuoi fare? Già sotto ghiaccio, a casa arrivi i occhi, a pesti tutti i lavori. Ehi, no, qui già è buono, un burruchizzo surgelato che compro da Alice. Una volta che lo cucini già si sente il sapore buono. No, non ne vendi di buccaria. Io per dire, quello che compro da lì ce l'ho trovato sempre buono. Sia polpi, calamari, vongole, cioccola, un rigotto che fai con un sugo, oppure quel misto pronto. Tutto buono, ma dipende dalle ditte, mi capito. Ma chi si arriva in roba amara? Non ne prendono più la roba da quella gente così, capito? Se no si giocano i clienti, non vendono più. Ma li vendono ugualmente, capito? Vendono i prezzi bassi, magari li vendono ugualmente. No, che ne lampano, no, grazie. Purtroppo non è uno solo, no. Certo, fino ad andare a centinaia, a migliaia, per cui un po' uno, un po' l'altro, lo vendono ma stessi. Oppure qualcuno si rumiscia il muro, capito? Purtroppo il commercio è così, Lo so, sempre che tutti dura gli assimilia, però perlomeno quello che io ho preso da lì c'è surgelati. Pensava io là già avuto sempre buono un pesce. Non ho trovato più pesce che era amaro, compreso. Anche quello che prendevo da quell'altro, lo stesso, quello che c'è. Dove c'è il carbone che giri lì e scendi giù, anche lì l'ho trovato sempre buono il pesce, e non solo un anno ha giubilato va via i bocchetti surgelati, ha giubilato un pochetto surgelato buro ed era buono avvio, ma buono Alice io mi sono trovato male e per cui non sono visto che ha dato più a chi. Ma lì c'è, mi sono trovato male per cui non mi sono tornato più. Però, da chi d'altro? C'è da scegliere veramente, per cui ho visto che c'è roba buona, dai. E per cui ci vado sempre. Adesso ci devo ritornare. Mi devo tornare una di CD. Avete cosa bene, sicché a che cosa biglio. Ma chi su di Alice mi ha sempre detto a me, se lì trova per caso qualcosa che ha qualche difetto, me lo deve venire a dire, prima glielo cambio, mi ha detto, poi me lo deve dire perché loro avvisano i gabbizzoni e allora non i bigliani più di merce da quella gente, capito? Loro vogliono anche il parere dei clienti, a me me lo dice sempre quel ragazzo che c'è la casa. Vuole sapere un parere della roba quando la cucina, capito? Già ci sono coglionisti, ma ci sono quelli disonesti che fanno delle cose che non dovrebbero fare perché ha disguido di loro, però lo fanno, capito? Però prima o poi ci cascano e la cosa non li va bene tanto, capito? È quello il fatto. E per cui si devono adeguare le cose che piacciono che sia roba buona, ecco. Perché il cliente se paga deve essere anche accontentato. Guarda che quel ragazzo a me mi ha detto, quando prendono qualche articolo nuovo, lo porto a casa e lo cucina mia madre, mi ha detto. E io contesto se è veramente buono oppure è una truffatura che l'hanno fatto Buraese, capito? Perché quello lì sono una cooperativa, sono una società, capito? E sono tutti padroni, hai capito? Dunque, mi dici vada tranquillo che è perfetto questo, vedrà quando lo cucina mi dà una risposta. Mi dici Burugusimi. E quello lo fanno per attirarsi i clienti, te lo dà garantito che è buono, capito? A chi è tu l'ha già assaggiati? Oh, una volta hanno messo una pescheria di surgelati lì in via da prolungamento di via l'Italia. Dunque, prima sa a risetto. Catta, noi non lo sapevamo, Catta, ce l'hanno detto, dice che c'ho dei prezzi buoni. Catta, siamo andati chi dà un mazzano. Avevo invitato due cassoni manni di... Come, cosa era allora? Calamari. Con Dogna Calamari era una cosa incredibile. Due cassoni avevo invitato. L'avevo preso poco, dirà. Però dico che è roba buona, buona. Due cassoni manni mi. Due cassoni manni. Anche io l'ho preso, prendo il cartone direttamente. O se no bisogna di in busta, che bisogna ci busti i manni, ma e bisogna avere il calamaro, ma io li aggiunto sempre buoni, ma buona avviso, davvero a me i calamari mi piacciono un bel, frisce col sughetto, e ne mangio parecchio calamari, mi anche i tostani, però i più calamari mi piacciono di più. Ehi, i calamari, le puoi fare in tante maniere, capito? Poi fai in tante maniere il calamaro, capito? Noi di solito qua no, lo facciamo con la griglia elettrico. Prima che andavo in campagna magari lo facciamo i bracini, però noi lo facciamo i roghi e mi bocco 3 o 4 ogni tanto di giorno mi costruire giù leva che pone. Però appena che sono rossacci così, mi ricapo, non fosse a pezzi, aglio per sempre il peperoncino, ma lo sai quanto è buono. Ehi, mica io molte volte lo preparo, me lo faccio col sugo e poi mi faccio gli spaghetti, oppure me lo porto in agliata e da me mi godo gli spaghetti con il peperoncino. Aglio per sempre il peperoncino. Buona legge, escini. È tutto buono, l'importante è che piaccia la cosa, dai. Quando una cosa piace, è chi dà ragione, sempre buono. Grazie, mi deve passare 10 minuti, dai, eventualmente ti attacchiamo quando rientro, ok? Ehi, vai, vai, tranquillo, ok? Beh, c'è un marito, reggio, sì. Chi è là? Beh, Antonè, come andiamo? Bene, tu, Marì. Allora, come andiamo? Tutto a posto? Tutto a posto, tutto a posto, e tu? Sì, un po' di stanchezza c'ho. Tutto ok, tutto ok. Io credo che c'ho tempo. Un po' fa freddo, un po' fa caldo. Non si capisce più una fanculo, non si capisce adesso. È già 3 giorni che ne scende l'aria. È un casotto, e boh. Ascolta, la c'hai, la 27 accesa c'è per caso? Eia. Sul 23 o 24 mi chiami, fra quanto sei, prima mi controllo. Sul 23 ti chiamo, là. Ok, dai. Beh, Marino, a chi sei? Ciao, Marino. Popolio, tu sei? Stufo! Ehi, dimmi! Ma ti sarebbe, però non me l'hai detto. Ehi, adesso te lo dico, là, non ne faccio nulla qua, aspetta che te lo dico. Beh, signor Fischietto, Buffadori, dove sei? Ma ci sei? Ma siete brontolenti, sì. No, poco fa ho sentito a Marino e Antonello Pompuglio. Ah, va bene, uno che la Buffenni. Ed è Parigi. Sarà Fennero Fuoco. Sarà Buffenero Fuoco, infatti. Chi ci mangia pensando io? Mi sa che andrà a farmi la barba, mamma. Tanto ancora, è chiuso, che ha ragione. 17, manco 25. Chi ti si? Appena le 7 mi ha convinto appena. Dunque la barba già ce l'ho, già me la posso fare, tanto è presto, non vendici una cura, e no. Oh. E beh, cosa se mi fa, pa? La barba mi dovevo fare, ma avanti a famiglia. Infatti la barba, ragazzi, se la fossi io. cazzo, io, tutti quelli che sono venuti da me a farsi la barba e i capelli, no, li sono cresciuti di lì, non li pensi mi dirà per farsi di bene la barba. A te te me c'ha meni me figliura, se lo sa vu. Care, Debora è. No, l'altra. Salutamela. Guri guffi, c'è qui nella radio. Aspetta davvero, Zavu. Ci ha portati. Vada, fammi la barba, Gian Mario. Ci sentiamo dopo, là, fra 10 minuti, 5, là, la faccio veloce. Fai con comodo. Non ti perdi niente tanto, Piano piano, senza tagliarti. D'accordo? No, sono a tre lametti che si tratto io. Nella... avanti, nella Wiscon, già sono buone. Va bene, se no, anche me... Allora, ma che basta tu? E ripicciati, sei la barba, buona piccola, invece si allunga, non mi piace. Fatti bello, fatti bello. Ma Rosa è contenta. Da oggi le toccato il balletto, al balletto. A ballare è andata oggi. Poi toccava oggi. La salina è andata che non aveva gana. Martedì mi sembra. E la gente cosa è pagata a fare? Non vi voglio rimaccata. E allora già è andata. Paghi da voi non quanti, chi sa mi piace. Non ha gana. Se non ha gana uno si sente, no? Non mi canta caso non da bene. Si sente bene, tranquilla. Ma oggi noi la tracca come te la farino. La dici tu, fatti, riposi un po', infatti la bella mangiata c'è da poco, se cucata si ne pensa andare 4 1/4. E ma dici, già mi dici, ma si devi trarre 5, anche ora è la buglia che cosa vuoi, appunto fatta con la lavata la faccia, boh. Non è buono, dopo pure fai sabaretta, sono venendo un bel di niente, chissà. Da a noi, un difficile ricuri, no? E i burri viso la sera. Invece sta sentendo in casa uno, bica e anda, io che non mi posso andare, se no gli avrei andato via. Ma io a ogni anno non può andare io, se no sarei andato. Vadano bene, gli amici miei vanno, i miei. Che ti burro più manna vanno, no, so che andata a vivo, una lì un po'. Ci va un sacco di gente, anche gente più anziana di me. Quasi carte te, quasi 80 anni a Finlandani, a coppia, marito e moglie. Sono bei gandari, no? Quindi sono bei gandari. Poi la letta andava prima. Palestra, vero? Palestra, andava in palestra, Edda. Però la danno fino di più, perché... Però se lui si sente di andare è meglio cambia. Ok. Ma chi è tipo come c'è una balestra, perché fanno anche quei balli di gruppo e si muovono in tutto, compreso, si muovono in fila e a salire i bracci, l'anche, si girano. È tipo che stai facendo tipo palestra, amico, che si va di chi va si va. E sono anche belli quei balli di gruppo che fanno. È tipo che c'è una balestra. E gli anni fai movimenti. Dai, vai fatti la barba fa. Già è acceso qua. Adesso vado, va. Fatta tirare la ciabarba. Fatta, ho finito adesso. Solo stavo leggendo una ricetta del guanciale di maiale con fagioli, cipolle, pane a fette col sughetto. Stavo leggendo come farla, ma l'hanno mandata. capito mi hai. Già l'altro che si sa come farlo, dai. Vedrai che lo trovi. Oh, già l'ho fatto altre volte, però qua c'è il pane a fette. Adesso devo vedere se va messo sopra il pane e poi infurrato dal forno, capito? E così la provo questa ricetta. Preparare la costella di maiale, pulitela racchiudendola con la parte liscia di un coltello, bollitela per 20 minuti fino a che non si sarà morbidita. E quando sarà cotta tagliatela lì, sbucciate, tagliate finemente le cipolle, fatela leggermente a far Napoli il parito e sciabili. Ah, stai leggendo la ricetta. E fa la cosa. Allora che mi ha da te cosa bella ricetta. Che voce si può fare già leggendo la ricetta, però. Guarda come ti piace a te a Fuccidini. No, la vado con i geni, già la faccio però, in questa maniera qua, a vedere se è buona. E quando la cipolla sarà appassita, aggiungete la passata e il pomodoro e cuocete per 10 minuti fino a che il sugo risulterà denso e cremoso. Aggiungete la costella, tagliate le stelle e cuocere per 5 minuti, in ultimo finite i fagioli, il sale, il pepe, l'alloro, cuocete tutto per 15 minuti e buh. La faccio, a me piace, a me i fagioli. E sono anche quei fagioli bianchi, già ce li ho anche freschi nel pozzetto. Falla. Dai, tutto buono, l'importante è riempire il sacchettino. La posso avvenire, ma mi sa che la posso domani. Fatto baciamba, bisogna inventare. Fai, tranquillo. Ma non hai tratto nessuno, boh, tutti in giro sono. E allora? Azzicca asparagi, Torre sarà azzicca in asparagi con Lugani, a chi? Lugani l'ha giunta, il Bigliamossi. E Marino l'ho sentito poco fa, 2 minuti insieme a quel porco di Garbolate, di Antonello, lo sposino là diciamo. L'ha giunta una volta e l'ho sentito, né uno né l'altro. Ma chi ci sarà dentro una gara crepa? E cosa vuoi dire? Luca Manicomio sarà un circolo? O se la venni a chi su? Stati sempre sotto la doccia? Luca Flippe sarà Cubicchetti? Cosa ne so? Boh! Insomma, tutti indaffarati, ecco. Sono tutti indaffarati. Vabbè, lo dici che bisogna fare sempre. Capito. Antonello, si rivede, devo essere. Ha chiesto prima di passare io, la poi se ne ha dato l'idi. E sta di brinca che ti brinca. Già lo so che Antonello sta di giamba a stessi, da un canale all'altro, sempre burro genio. Eppure il telefono va vita, in chi tu cosa? No, io non ne ho più messo. Ma fa ascoltare, prima ogni tanto lo mettevo. Ma è stufato. No, meglio parlare verticale così. Ma metti il telefono, non mi piace. Mamma ci vuole, non li bongo io, assolutamente, non mi piace. Se c'è gente parlo qua, se no pazienza, sai cosa vuoi fare? Ho qua il 27, va bene ugualmente per me. Vediamo un po', Luca! Grazie, ma sempre che ti fai? Millumi, arrivi, Millumi, hai visto? Ciao, Tore, o dove vedi a sparati col cagnolino? Se non me la regani, poi non ne mangio né manco io. Quindi, non mi dica la manca di vederli gli asparagi. Guarda che fa bene che i diabetici, come l'ho letto su internet da poco, La spada ti fanno bene anche per andare a urinare in bagno, non lo sapevi tu questo? E ti pulisce, ti filtra i reni, il fegato, tutte quelle parti lì, te le ripulisce il contenuto che c'ha l'asparagio. Si dice asparagio, ma si dice asparago. Ehi, l'ho letto io da poco. Ma si vede alle parti dei reni, il fegato, ti aiuta anche a urinare. Ti depura, è tipo una medicina. Vero Giammaria, lo sapevi tu? Anche i finocchi serrati ci fanno bene. Anche i finocchi serrati ci fanno bene, per cui bisogna mangiarne molto, asparagi oppure finocchi serrati, specialmente per i diabetici. Ciao Tom, buonasera. Buonasera Giammaria. Grazie a notare a Sariado, E anche mi ha fatto la valpazzone, la faccio pulisce e curro di più. Dimmi tu Giammaria, che lui non è un intenditore di barbe. Già lo sappiamo. Già lo sappiamo. Tu l'ho detto a venire da me che gliela faccio io la barba. E anche i capelli li faccio. Col nuovo sistema che si usa adesso, capito? No, lo faccio pagare tutto gratuito. Non li crescono più i capelli. Perché uso il bruciatore e per cui non lo faccio pagare. Ne sarà ben d'accordo, ne sarà. E allora invece, vado sui zuppi, vado. Già è una lì non la bene. Cioè, un po' già ce li ho. Mi ritaglio sempre a chi non mi piace, neanche come ti so già a 2 centimetri cominciano a boccolarsi. E allora mi ritaglio sempre a spazzola, a corti. A raso un giorno me li ho fatti a casa, qua, tanto non mi piace, i 3 tipi da via Donnarunghi. Allora ti cresce subito sbaglio a te. Come te la scimmia? No, perché è il cortisone che ti li fa crescere prima, capito? Sono compagni di macchine di cortisone, più quello spruzzo discus che è a base di cortisone, io non credo mi cresci. È veloce e blu cresci. E dunque, li beni mia, solo mi li rabbedenni, ha una berra, un ciuffetto già allungendosi. Mi sa che domani ha giudito un colpo di macchinetta prima che si allunghi all'improvviso. Hai capito tu? Io lo credo, bobo. La signora Baiba l'ha fatto male stasera. Io non mi fosse la barba, me la fosse non mangiare un ghizzo. No, la gira. Che la gira non mi riesce a fammira. Mi fosse affetto. Invece non mangiare, mi vede rilasciata e tutto. No, prima me lo faceva così, adesso no, me la posso a qualche ora, là, pure la mattina, pure la sera. No, non me ne faccio i vetti, vabbè che c'ho quel rasoio a 3 lame della Wilson o cosa marasuccia si chiama. All'epoca dagli avevi, posso una parata e una strada, adesso pulisci, pulisci. E anch'io c'ho la 3. Anch'io ho la 3, così che uso sempre quella 3, uso, ma da un bel d'anni. Però costano parecchio, costano parecchio, ma la so, sulle 15-16 euro mi sembra che costano. Sono quattro pacchetti. No, allora spicce la macchinetta con 2 lamette, una attaccata e una scapola dentro la confezione. E costa 6,20. Poi c'è il pacco delle lamette da 6 che costa lo stesso 6,20. Praticamente vieni sulle 14 euro quasi, là. Quella così è da morte, parecchi anni ce l'ho con la macchinetta, capito? E perché uso solo quel tipo di lamette io, capito? Solo quella che c'è scritto solo 3 e basta, capito? però deve essere solo altri tipi pure, capito? Forse tu c'hai l'altro tipo, ma io c'ho quel tipo che di 5-6 anni fa, capito? Io stavo usando quella A4, stavo usando anche, però quasi più bene da 3 che a 4. Io ogni tanto anch'io qualche altro tipo, io ho 5-6 i tipi di queste macchinette, cazzo, no? Però la più che mi sta bene è quella 3 che sto dicendo, con quell'altra qualche volta mi taglio in qualche punto, capito? Mentre facevo con la prima mai mi sono tagliato, mai, è rasa bene. Sì, solo che costa troppo ma la sorte, invece gli altri tipi della 3 costano molto di meno, capito tu? Ehi, sì, domani lo faccio, ma lo faccio quello stufato. E non ti stufa più, se lo fai non ti stufa più, No, me lo posso mezzo sassito, mezzo giangato, come ti piace a me, tipo bull dispensa, e me lo mangio con la truta di legna. E la cassarola di terra, buona rizzo, con che su balizzaggio mi affetti. Oh yeah, torre! E giù! Se riesci a masticarlo bene allora? Lo posso giangare, anche a me mi piace meglio giangare, come te faccia, ma come se si mangiava a buon dispense, e che su quel mio essere. Ah, faccio con un cucciare di legna pure, Mi raccomando, fallo bene. Aspetto. Giomari. Uia. Oggi è pimpante questa gira. Bah. Grazie. Pimpante, sì. Leggete la ricetta, Se leggete sempre la ricetta, dice che lo deve sapere a memoria per farlo domani, quello lì, capito? Se preparendi, se. Grazie, preparando di sì. E la cosa? Che cosa ne so, ti ha detto che ti sei fatto la vaiba, vedo, tutto canto. Così è che ti sei preparando ad andare a Fellucco? No, siccome era corta, allora sono passato in bagno, ha già mangiato il piccio, dice cos'è il cavallo, da quando mi è uscita. Era corta ieri, e oggi era un po' più lunga, dice va a venire a taglia, che non mi piace a me, a rimanere con la vanta. E sai cosa ci ho messo? 10 minuti, a sai mi bongo, e così di bene, a chi ti chiedi bongazza? Forse un giro e sono già fatti. C'ho la macchinetta nuova, a batteria, e un treno cammini. Cata che andiamo per andiamo? A batteria cosa? A fatta gli altri la barba! C'ho anche la macchinetta a batteria per tagliarmi la barba, ce l'ho a elettrica a batteria, poi c'ho il rasoio, e poi mi ho ordinato quel rasoio, che pare un culchetto, quello che si usava in antichità. Nella confezione c'è quello, un pennello, la cinghia barruda. Quel rasoio c'è, e da voi per usare il burro in questa cosa, una cassettina mi deve arrivare la sumessi e la pelle per affilarla già te l'hai ordinata già, è già dentro la confezione, una scatoletta in legno, c'è il rasoio, una lama di ricambio, questa cinghia parruzzalla, poi c'è il barattolo pro raso, che ce l'ho anche io quello qua, di sapone e il pennello, e lo sticchi se ti fai qualche taglietto, quella specie di bassello che friggi un bega, se ti fai qualche taglietto ti rubassi, no, ti blocca lo sangue. Capitolo è tu, che tu non ce l'hai. Ma ne posso nulla, o se qualcuno si raggiunga e ti fa dire rodaglio nera ora, che tanto non è poco pericoloso. Cazzo, ho visto, anche la macchinetta fa di barba elettrico c'ha, e la batteria, che tu non hai, cazzo. Ma giudichisci, sia elettrico che a batteria. Se ci butti tutta la base che non è parabedi mia. Capito, bravo, grazie. A me tra fa in fretta la barba quando è a batteria. Ha detto che è impegnato Gio Marì. Deve essere leggero, deve essere leggero della ricetta. Se la studi a memoria, stanotte non dorme e si studia quella roba per fare quello surfaccio per domani, capito tu? E allora, no, siccome ti cacca tu non mi ha detto che io non l'ho mai fatto surfaccio come te dici, l'ho fatto pure di meglio se è pagisso. Ah, però domani voglio provare quello, a vedere, anche se è praticamente quasi uguale a quello che faccio io, ma ci provo. Prova, grazie, prova. Bisogna andare sempre avanti. Il parasasso e poi la bassi. Grazie. Un attimo, cioè. Chi stava entrando? Chi è che stava entrando? Pelopi! Giusettore! Chi ha detto che non vuoi entrare nella vagogna? Peggio Baetto, lei è una bici, non va ancora a bici, no? Entra, se non piace, lei hanno da rubacori. Ma chi ci ha separato dentro una gara a crepa oggi? Boh, chi ne sa? Non entra nessuno qua, me lo bei! Non ne vuole sapere, grazie! Per carità, tutti morti sono! Per dire, stasera ho sentito il fuggito a Marino con Antonello! L'ha chiamato, io manco per l'anticamera! Non andate in cacca frequenza! Marino non penso, magari per ne cosa, ma Antonello sì! Ne so! Antonello! Ragazzi, se devi guiare tutto il città, va! Sarà pagisso! Bella me! Ma con Luca, manicomio si è sentito oggi? Strano! Perché io già mi travagliato troppo, pagisso! Sono i stracchi! No, oggi non hanno travagliato! Mi l'ha detto Luca, manicomio, ciamani, che oggi non hanno travagliato! Domani travagliano. Ma che mai non hai travagliato? Scioperato domani oggi. No, anche il muro che hanno fatto devi asciuttare bene. L'intonaco, compreso. Devi imbianchinare. Devi asciuttare bene per far dare all'altro, così. O poi imbianchinare. Per imbianchinare devi asciugare bene. Adesso, con l'umidità che c'è, da oggi a domani non asciutta bene il muro, compreso, è meglio che asciutti a me, ormai con due dì già asciutta, compreso. E allora poi digni una passata per andare a Romanzano e una passata per andare a Nazina, perché è tutto fresco e dunque tira più piano solo. Una passata recupera di domani e una passata da domani, e ci vedo. E cosa grazie? Ha detto di che giro muro, a bianchina, deve aspettare almeno uno o due giorni che in inverno che asciuga bene il muro, capito? Che poi se tingi, senta tirarselo perché i muri sono ancora umidi, capito? E dunque oggi va una abbassata e domani ne ridà un'altra abbassata. E dipende dal tempo. No, dipende da che si è asciuttato vero un muro che andava intonigato e è rifinito. Deve agitare un po' garetto, deve agitare. Ha manco una ghita. Io prima di intonigare a casa di mia cognata che l'ha giù fatto, ma intonigare lavora. Ho aspettato un 6 anni prima di intonigare lavora, anzi forse anche di più. Così ha fatto l'assestamento bene, no, la casa. Infatti, che legislatura si vedia come si è assestato tutto l'insieme del blocco della casa, capito? Dentro già la gente intrigata e noi ci usa, però all'esterno ho aspettato un bel po' di anni, cadeva per la città da laggiù intrigata. Ed esci da un bombo, si andava a bagli, non per una crepata, una che una non ne vedi, perfetta. Vabbè, devi lasciare un bel poco per intonigare fuori. poi a mano Anthony Gage, però mi ha detto così. Io ho visto un bel coso, fate venire da bocca che si vede il gribaduri. Eia, ehi, così, ehi. E beh, e allora, ma chi già ci sei? Mi pare che Bacchisio sarà cavendo nelle piante ancora. E che piante ne devi agava? E cosa ne so qui io, cosa fa in campagna? Sarà nel loro quindi sarà lo... Ma ti si chiama? Di asciutto. Io che piazza avevo un giardinetto, pare una piscina. Avevo buono un mese a subirci di seba. Ma dei giardini che hanno fatto. Quando vanno i chivi non vi pure un bozzetto. In una piazza così male hanno fatto un bozzetto che fa i bigni. Per carità, c'è un giardino e sembra una piscina, sembra. E vi sono in mezzo due alberelli che abbiamo piantato a fare fraseggeggia. Ah va, saranno gli affraseggi. Troppo di navi pure hanno in chivi. Se ci hanno fatto a tempo basso. Travagli fatti al ragazzo di cane. Se tu vieni e guardi in piazza, vedi per la piscina, vai senta sul bacino. A chi vivi la terra è sopra sopra, sotto vi sono i mattoni vecchi. Di la piazza, a razza di travagli. Dato devi fare un giardino, buca di giù un calcio estruso che va sotto. Invece arrivato, si è ricutto la terra sopra, è arrivato tutto l'uido e arrivato un po' sull'elba che serve a prato inglese. Però l'acqua non se la assorbe, il senta di più, così si prate che già tutto. Agito grazie, che dice che l'ha fatto va, ha fatto va tanto per farsi vedere che ha fatto qualche cosa. Sono anche compreso che era tanto buono per farlo vedere diverso. Che dice non è buono a far nulla, ha fatto tanto per farsi vedere. Ma come li assinnando che sanno? E che si pare di la Russi che vi so a Magno Maria, a stare a frase gazzi. So che le geni tratta sui aginetti. Abbiamo voluto vedere la canaletta del tubo della corrente, sarà tutto pieno d'eva, non se ne buone le mani. Oppure tocca il subaro che vi rimane attaccato. La razza dei travagli, sono da denunciare, sì. Grazie, fino a che ne succede qualche incidente, vedrai da voi entrare in mano alla procura. Se non succede qualche incidente, voi per fate ne va bene il travaglio. Guarda che è veramente pericoloso davvero, ci sono due pali di quelle luci che hanno messo, no? Ah, è mezza leva, so galleggenti. Chi se secondo me c'è di docchio, mi rimane attaccato a chi si bari. Vabbè, papà, entra i chivi, ve leva ad arrivare agli luci, deve essere proprio macco uno andare ai. Ma cazzo non sono lavori da fare, no? Quello è pericoloso. Poi non si, già non sai come ci sono i piccini. E quando vedo i piccini entrano in Roma e si bruleva, perché anche l'altra volta ho visto che era tutta la gatta e c'erano dei bambinetti. Più che ne si entravano in Roma e si iva a pigliarsi un pallone, si attaccavano a rubare, no? A chi si pare all'altro, uni noi da galleggiati. Era pericoloso lì, questi sono cibi. Grazie. Mi sei stato fatto tanto per tappare un po' di dura bocca a far vedere qualche cosa, però se dovessi essere qualcuno che rimane folgorato vedrai che i chivi, qualcuno si ribone nei beni e qualcuno vedrà che passa guai. Aspetta un minuto che rientro subito. Sì, pompugno. E allora, catabu, quanti incidenti ci sono in questa zona vostra? Mi hanno fatto una piazza, che fa di biaddai i vasi. Il cura che ciò che l'ha fatto va, vorrei abbigliato e mandato via da cosa, vai, innanzi a un pavimento, invece di lampadino. A me sono preso attaccato in terra a me. Si rimane tutta a galla, rimane, quando fa si va rimane tutta a galla in chivi. Ma ti pare a te che devi fare un terreno in tanta, a una piazza in tanta di mattoni. Quando piove si allaga tutto, sale 10, 20 centimetri, tanto già ci sono i padrelle. Ma dice se può ancora già qualcuno a risalire a tutte cante, a risalire. A chi si hanno fatto le travaglie, a chi si hanno fatto tutto canto. Assessore, già mettere canto per me. Lo va a fare densa, non è che si riempie, a parte che si può... Ho visto quella piazza lì quando la stavano facendo, non ha negato una mattonella, ha lasciato tutti i sotto, ha lasciati. Certo, ma ti pare a te che devi pulire a terra e andare a rimattoni, così non assorbe nulla, non assorbe, e rimane sempre lì l'acqua. Ma di che piglia che fuoco già qualcuno lo vedi? Cosa annesci? Peggio di qua i carbonazzi, la piazza ti ha visto quella che c'è a carbonazzi, dove c'è Signora Maria. Ogni tanto nascono le mattonelle, da sole, mi nascono le mattonelle da sole, si spaccano. Le hanno già cambiate già 4 volte, no? Già cambiate. E sempre lì ce le hanno messe. Lo sai quanta gente cadeva quando pioveva, mi? Secondo le scarpe c'hai. E dritto dritto ci uscivi, a terra. Sì, io lo so, siccome purtroppo la gente non capisce nulla di cosa sta facendo, tanto non vi cammina niente, non è che vi cammina niente, siete che troncano i rugudu. E infatti è proprio per quello, qua ci sono i pavimenti lisci lisci lisci proprio, quando piove sai quanto è pericoloso, certo. Poi si spacca, sono di quei mattoni larghi che hanno messo, scrivete qua con le mattoni larghe, lisci lisci e fini. Euia, freddaiga. C'è gente che non ne capisce nulla di come vanno fatte le cose, no? C'è gente proprio pigliata e allontanata. Ciao! E allora? Buonasera, davvero, ben sentito davvero. E allora, come te noghi? Che si imbecilla, a posto un rimattone è nata curugollata e nata rugatrama, ne so farati tutti in terra, ne si mica a capo da ammazza. Che si matta un incotto che ha imbocchi il cornicione e la gabbettuglia ai noghi. Vedi di denunziarli! Ma stava a battere il sindaco quando l'ha inaugurata, cazzo. Quella piazza. Ne ha fatto poco le pubblicità, anche complesso, ci ha fatto arrivare. Oia, per carità, perca, quei lavori del sindaco. Ma come già se ne sta andando? Ma non è un sindaco. Dice da ruggiometra che ha fatto pure chissà cosa, ora ingegneri. Dice tra geometra e ingegneri, non è colpa di sindaco o assessore, c'è colpa di ingegnere e del geometra che hanno messo con le mattonelle. E beh, fa forza, se no come ti fa ne ha furato da Ririnà, da Egivi. È logico, lavori in economia la futti butti, così sarei fatto giuri di nara, mi dai e più, non hai compreso? Se i lavori sono fatti in economia, sì. Secondo te, infatti quelli da comune bisogna risparmiare, no? Meglio sì, quelle cagate che ha fatto, anzi che sta ancora facendo in via Milano, capito? La pista ciclabile sta facendo adesso, per carità. Che così ci possono passeggiare i pedoni, se quando chi trova la notte lì, sai come ne ritrancia, a uno. E se no si marcia a piedi che ha fatto digni il color viola, color di ruga pusanto, salo di gabbo, e a poi di ruga tram e vanno pure i mattoni, e l'ha fatto va colorato, color viola. E lì nella via dove c'è a mano, amici, tutti quei marciapiedi, vai a vedere i marciapiedi, viola sono, ma è asfalto, mi. Tutto asfalto è qua, tutto asfalto stanno facendo marciapiedi, quindi il giorno e l'ora che passa qualche persona che ha mirato che mezzo cotta e traccia tutti da un pezzo, te lo dico io. E quello è fatto per risparmiare, hai capito? Così l'assessore e il geometra e l'imprese che ha fatto i travagli si hanno fatto giuridina così va mangiato l'assessore, il dirigente della Avuria, hai capito? Quello che ha dato il lavoro alla cooperativa. Se ne dare due trappoli già, sore! Sì, grazie. Purtroppo non vi puoi fare nulla, quando è fatta in economia non ci puoi fare nulla. E beh, se no come fanno a rubare? Poi che abbiamo stanziato 50.000 euro per fare quella buia. Se ne hanno morti 15 sono qui c'è troppo e l'altro se ne hanno impazzuti. Non lo sai che così, purtroppo. A voi quando si calcolo si fa se mai, dove vedo tanto cosa esci. E allora a voi fatevi fatture facci di trasporti, di viaggi, di mare, di zoe e si mangiano i burrucci di là. Quando non hanno bizzicato, un bene hanno bizzicato. A parte che ci sono BD, oggi l'ha fatto vecchio, non so quanti di là si ha mangiato. Chi si l'hanno cotto in galera, che l'hanno copiato la finanza. Prima o poi è sapito, non ti preoccupare, prima o poi è sapito, poi si è mangiato l'anima di Dio, si è mangiato. E anche tu pensi che tu, si dà che sei scendi, non ha già mangiato, eh? Chissà tutto cosa ne andrà a cito che sta con delinquenti, sta mezza sega. Sì, purtroppo, è tutto così, è tutta ovura ovura. E allora, beh ragazzi io chiudo, ci sentiamo a domani se coincide, sono le 8:10, mi devo fare pure l'insulina. Ciao Antonello, ciao Gian Maria, se sei in ascolto, ciao a quelli che sono in ascolto. Alla prossima, rilancia a settore, ciao, bye bye. Ciao, grazie, ci sentiamo alle prossime, ci sentiamo, ciao. Cate circolare ho fatto, ce la risentiamo a vero. Signore, signor Gian Maria. Chi è che stava chiudendo? Che piano ha chiuso? È un po' lontano, ho sentito di vista. Ciao, grazie, se c'è con l'ascolto, ci sentiamo. Ciao. Ciao Gian Maria, buonasera, buon tutto, saluti in casa, avanzato, sono l'ultimo accudente, mi devo fare pure l'insulina. A domani se coincide, ciao! Mi raccomando, che lo sto fatto, fallo bene, mettici tutto l'impegno, domani il voto visto, ok, ciao! Ciao! E ma chi sei entrato, Eto? No, non è entrato, mi è entrato Antonello, però non so quindi se sia uscito. Antonello, ci sei, da vedere se è allontanato, vabbè, da. Sei già all'ottimo. 8:10, va. Fino all'ultima cosicola va. Ci tratteniamo soltanto io. Può darsi che entri a chiesi, Se non entra davanti non entra più. Ah, così, Non è entrato, non è manco Luca Montanaro entrato stasera. Vuol dire che tracco, sia uno che l'altro. Da farà, diciamo, sono i tracchi al travaglio che hanno fatto oggi. Non lo so. Non lo saccio, boh. Allora, o su arrucendi. Capito? Uno caso, una cosa o l'altra. Vuol dire che sei impegnati. E cosa vuoi fare? Vabbè. Andava così. Vabbè dai, Gian Maria, io chiudo. Giocciamenti. Ci sentiamo domani se tutto andrà bene. D'accordo, ci sentiamo, ciao, buon proseguimento. Saluto in casa, ciao. Ciao Gian Maria.